Allora, chiaramente, buonasera a tutti e tutte, grazie mille al Forte Prenestino, grazie mille a Radio Onda Rossa per l'ospitalità. Iniziamo questo discorso proprio su antiossidanti e superfood, mito mediatico e evidenza scientifica. Oggi affrontiamo almeno 4-5 argomenti legati a questo discorso degli antiossidanti, come vi dicevo prima, no? Cercheremo di capire quando dobbiamo prenderli, che cosa sono, fanno male, fanno bene, qual è la modalità migliore, quali sono fondamentalmente e soprattutto quali sono anche i messaggi pubblicitari legati agli antiossidanti per capire se sono veri o meno, in maniera molto semplice, però basata sull'evidenza scientifica, per cui vedremo anche e soprattutto dei dati. Quindi partiamo da quello che è il concetto del rapporto tra cibo, salute dell'essere umano e salute del pianeta, cioè la sostenibilità alimentare. Nella definizione di sostenibilità noi abbiamo proprio questi due aspetti, cioè una dieta sostenibile è una dieta che ha un basso impatto ambientale, cioè non incide sull'ambiente. In che modo? Bassa produzione di CO2 durante la produzione dello stesso, basso utilizzo di acqua, basso utilizzo di terreno. Quindi un impatto minimo, ma chiaramente poi tutto un profilo nutrizionale e funzionale che è di alto livello. Queste diete sono in grado di contribuire appunto alla sicurezza alimentare e una vita in salute per le generazioni presenti e future. E questo è assolutamente importante, cioè la conoscenza che si tramanda nel tempo, sia per la salute appunto dell'essere umano che del pianeta. Questo è il concetto della sostenibilità alimentare. E andiamo al problema, quindi perché prendo l'obesità come problema? Perché chiaramente l'obesità ormai è riconosciuta come una patologia, no? Ma è una patologia che porta ad altre patologie, cioè essere non tanto sovrappeso ma soprattutto obesi aumenta il rischio di sviluppare tutte quelle che sono le patologie degenerative, cioè il diabete, il cancro, alcuni tipi di cancro, le malattie cardiovascolari. E adesso tenteremo un po' di capire perché poi gli antiossidanti rientrano in questa storia fondamentalmente, no? I numeri sono impressionanti, l'OMS ci dice che abbiamo circa 1,3 miliardi di persone obese e sovrappeso, che non sono solo una caratteristica del mondo occidentale, ma anche nei paesi in via di sviluppo, paradossalmente, perché comunque sono legati a una cattiva alimentazione, non solo a un eccesso di cibo, ma anche a un'alimentazione che non è quella che dovrebbe essere, per cui alto contenuto in zuccheri, grassi, eccetera, eccetera. Soprattutto abbiamo 12,5 milioni di bambini e questo è un problema che riguarda moltissimo l'Italia, perché in Italia abbiamo, negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto un picco dell'obesità infantile e questo chiaramente è un campanello d'allarme estremamente importante. Perché l'obesità è un fattore predisponente per tutte le patologie? Perché fondamentalmente noi abbiamo che cosa? Noi l'obesità, siamo grassi, troppo grasso, ok, va bene, ma che succede quando c'è troppo grasso? Il tessuto adiposo è un tessuto vivo fondamentalmente che genera una serie di reazioni a livello metabolico, cioè che cosa accade? Accade che abbiamo un'alterazione a carico dell'apparato cardiovascolare, questa famosa funzione endoteliale, no? Per cui il nostro vaso si restringe, per cui il sangue passa di meno, c'è un aumento della pressione, quindi l'ipertensione, secondo fattore. Non solo, abbiamo sempre e comunque un aumento della quantità di radicali liberi, quelli proprio che tra virgolette devono essere combattuti dagli antiossidanti, per cui questa condizione si chiama stress ossidativo e questa è una condizione che ritroviamo sempre nell'obesità. Non solo, quarto fattore di rischio, l'infiammazione. L'infiammazione che cos'è? È una risposta del sistema immunitario, no? Quando ci tagliamo, quando abbiamo un'infezione batterica, virale, interviene il sistema immunitario, interviene con l'infiammazione, che quindi è un processo buono fondamentalmente, un processo positivo, che però poi si deve estinguere. Nell'obesità questo processo non si estingue mai e che sta a significare che il nostro organismo combatte una battaglia che non riesce a vincere, per cui noi siamo anche sotto stress infiammatorio, per cui il nostro sistema immunitario combatte ma non vince. L'altro fattore di rischio, in alcuni casi possiamo avere un'alterazione anche dell'aspetto glicemico, per cui l'iperglicemia, e quindi anche, spesso e volentieri, quella che viene definita insulinoresistenza, cioè l'insulina è quell'ormone che blocca e abbassa la glicemia, no? durante l'obesità questa insulina non funziona più, per cui noi abbiamo il picco glicemico. E poi chiaramente tutta l'alterazione invece dell'aspetto lipidico, no? Per cui trigliceridi alti, HDL basse, LDL alte. Per cui l'obesità è una condizione che racchiude una serie di fattori di rischio comuni a tutte queste patologie. Per cui il focus della prevenzione con la dieta deve essere la riduzione dello stato obesigeno e del sovrappeso, e quindi una riduzione di tutti questi fattori di rischio. Allora, cerchiamo di capire, prima di entrare nel discorso degli antiossidanti, perché siamo obesi fondamentalmente. Ok, ci piace mangiare, ma non è solo quello. Un po' la colpa, e forse sono uno dei pochi a dirlo, è che queste raccomandazioni nutrizionali non le segue nessuno, no? Perché tutti sappiamo quello che più o meno dobbiamo mangiare, però la raccomandazione nutrizionale classica ci parla di calcolare le proteine, l'energia, i carboidrati, eccetera, eccetera, e nessuno lo fa. Noi ci preoccupiamo della nostra salute molto spesso quando è troppo tardi, quando abbiamo l'evento negativo, oppure siamo un po' aumentati un bel po' di peso, no? E invece, chiaramente, quello che la scienza della nutrizione dovrebbe fare è quello di fornire soluzioni alle persone per poter in qualche modo godere dei piaceri del cibo, ma senza alterare la parte metabolica e immunitaria. Questa diapositiva vi faccio vedere qua, sono appena uscite le raccomandazioni americane che hanno fatto una cosa intelligente, cioè sono andati a vedere come gli americani seguono le raccomandazioni nutrizionali, per cui pensate, non le seguiamo noi, pensate gli americani, no? Allora, se vedete, la linea centrale, quella dello zero, è la linea delle raccomandazioni. Qui abbiamo il gruppo degli alimenti che fanno bene, no? Quindi frutta e verdura. Vedete come nella stragrande maggioranza tutto questo aspetto degli alimenti positivi associati alla salute, il 90% almeno, l'80, il 90% degli americani sta sotto le raccomandazioni, stanno tutti sotto. Per cui vedete che il consumo di frutta e verdura è enormemente più basso rispetto a quello che dovrebbe essere negli Stati Uniti, ok, ma è la stessa cosa anche da noi. Poi se invece andiamo a vedere l'altro aspetto, quello dei cereali, stessa storia, cioè se noi vediamo i cereali totali più o meno siamo in equilibrio, però se differenziamo tra i cereali integrali, i classici, e quelli raffinati, che invece fanno poco bene, vedete come qui invece abbiamo un eccesso molto al di sopra delle raccomandazioni, per gli altri siamo enormemente al di sotto. Non solo, per quello che riguarda i cibi proteici, noi abbiamo che la parte dei prodotti d'origine animale sono enormemente al di sopra delle raccomandazioni, chiaramente. Invece poi per quanto riguarda il pesce siamo al di sotto, per cui questo è il pattern mondiale al momento. Mangiamo molto meno di frutta e verdura di quella che dovremmo mangiare, mangiamo troppa carne e prodotti d'origine animale. Io non vado contro i prodotti d'origine animale, però ne mangiamo veramente troppo. Più o meno è stato calcolato che mangiamo in media nel mondo circa il 400% in più di quello che dovremmo mangiare in termini di carne, e quindi chiaramente c'è uno squilibrio sotto questo punto di vista che ci porta a quella condizione obesigena che abbiamo visto prima. Non solo questo, ci sono gli alimenti processati, eccetera, ma questo ne parliamo un'altra volta. Quindi entriamo a parlare quindi di questi antiossidanti. Partiamo dagli alimenti d'origine vegetale. Perché sono importanti? Perché fondamentalmente apportano due gruppi di sostanze. I nutrienti classici, per cui minerali, vitamine, fibra, che fanno sicuramente bene, ma poi tutta una serie di composti bioattivi, tra cui gli antiossidanti, che hanno una serie di funzioni importanti, che riguardano però la loro interazione con le nostre difese. Noi scopriremo oggi che noi li abbiamo, gli antiossidanti. I prodotti d'origine vegetale sono in grado di darci delle sostanze, come vedremo, che interagiscono con le nostre difese, rafforzandole, per una riduzione di tutto quello stress che oggi vedremo, che si chiama stress postprandiale, cioè lo stress che ci viene quando mangiamo, che ha un impatto importante su quel discorso dell'infiammazione che abbiamo visto prima. Fondamentalmente, questi prodotti di origine vegetale ci servono per una cosa sola, importantissima, cioè il mantenimento del nostro equilibrio. Cioè questo equilibrio si chiama omeostasi. L'omeostasi è la condizione di equilibrio del nostro corpo, che è un equilibrio dinamico attraverso il quale il corpo raggiunge la perfezione delle sue azioni. Quando noi ci alteriamo e arriviamo allo stress ossidativo infiammatorio, questa omeostasi è alterata. Man mano che si sposta verso l'obesità, le malattie cardiovascolari, l'omeostasi è andata e diventa difficile poi tornare. Per cui il focus di tutto l'apporto, la strategia nutrizionale deve essere quella di mantenere questo equilibrio, oppure farlo scappare, ma non troppo, e recuperarlo. E oggi cercheremo di capire come fare. Antiossidanti, parola chiave incredibile, se fate una ricerca escono fuori milioni di parole, sono legati a tutti gli aspetti, a tutti gli alimenti di origine vegetale, alle creme, a qualsiasi cosa, agli broccoli, a tutto. Gli antiossidanti servono a tutto. Il messaggio è questo. Allora cerchiamo di capire dove stanno, che cosa sono e come funzionano. Innanzitutto parliamo del network antiossidante. Perché ho usato i sette nani? Perché questi signori, questi antiossidanti, che sono sia endogeni, cioè nasciamo con degli antiossidanti, che sono i gruppi tiolici, l'acido urico, gli enzimi come superossido dismutasi, catalasi, non è importante i nomi, però noi nasciamo con un pattern antiossidante che ci protegge, e ne prendiamo altri tipo vitamina A, vitamina C, carotenoidi, fenoli, eccetera, dall'esterno. L'insieme di tutti questi antiossidanti fa questo network. Perché i sette nani? Perché tutti questi antiossidanti reagiscono e interagiscono tra di loro. Alcuni sono presenti nella parte citoplasmatica, nel DNA, la parte idrofila, nell'acqua, nel grasso. Tutti reagiscono e hanno una specificità d'azione e tutti insieme collaborano per mantenere questo equilibrio, ok? Allora, gli antagonisti degli antiossidanti sono i radicali liberi. Tutti ci hanno detto che sono i cattivi, ma non è assolutamente vero. Antiossidanti e radicali liberi sono in equilibrio in una condizione fisiologica. Cioè, in condizioni normali, noi abbiamo una produzione fisiologica di radicali liberi, primo fra tutti la respirazione e quindi anche l'esercizio fisico. L'esercizio fisico è l'altra driving force, la forza importante che ci protegge, diciamo, ci riduce il rischio delle patologie. E chiaramente durante la respirazione i nostri mitocondri respirano, per cui produciamo radicali liberi. Per cui capite che c'è qualcosa che non torna. In condizioni fisiologiche i radicali liberi non sono un problema. Noi li produciamo durante la respirazione, mentre eliminiamo i tossici dal nostro corpo con questo citocromo P450, ma non è importante, però vengono prodotti durante quella reazione. E soprattutto i radicali liberi sono utili all'organismo per la risposta immunitaria. Quando noi dobbiamo uccidere un batterio, noi produciamo radicali liberi, per cui in condizioni fisiologiche sono assolutamente utili. E in queste condizioni noi non abbiamo mai un danno, è veramente difficile, può essere accidentale, ma è raro. Per cui non c'è una definizione da buono e cattivo. Il problema nasce quando noi siamo esposti in maniera abnorme a questi radicali liberi. E quando accade questo? Quando fumiamo, fumo di sigaretta, la luce ultravioletta, l'inquinamento, le radiazioni elettromagnetiche e anche gli alimenti, con quello stress postprandiale che vediamo tra breve. In queste condizioni, allora, ci troviamo nel danno da radicali, cioè in quel famoso stress ossidativo, perché quell'equilibrio si sposta, abbiamo molti più radicali che antiossidanti, entriamo nella condizione pericolosa. Quindi, fisiologia del radicale libero e dell'antiossidante è assolutamente normale. Quando però siamo esposti troppo, lì nasce il problema e lì abbiamo bisogno di più antiossidanti. Tutta questa storia degli antiossidanti nasce da questo grafico qua. Questo è un grafico di uno studio dell'87, di uno svizzero, che fa uno studio multicentrico su vari paesi europei, no? Qui abbiamo la Finlandia, la Scozia, la Germania, la Danimarca, l'Irlanda del Nord, la Francia, l'Italia, la Svizzera e la Spagna. Lui che cosa fa? Abbiamo un numero enorme di persone, lui va a vedere la mortalità per malattie cardiovascolari, che è messa qui, con i livelli di antiossidanti nel plasma, antiossidanti vitamina A, vitamina E, vitamina C e beta-carotene, e vede che le popolazioni, come in questo caso Italia, anche Francia, Svizzera e Spagna, che hanno dei livelli più alti, hanno una mortalità minore, e invece Scozia e Finlandia, che hanno dei livelli più bassi, hanno una mortalità superiore. Questa è la prima volta, fino ad allora l'ipotesi delle malattie cardiovascolari si basava solo sul grasso, per cui troppo grasso, tante malattie cardiovascolari. Per la prima volta nasce un fattore di protezione, cioè l'antiossidante. Se io ho nel mio corpo più antiossidanti, questi quattro, io sono più protetto. Per la prima volta viene legato a una protezione antiossidante delle molecole che si sono presenti negli alimenti. Capite che in quel momento inizia l'interesse spasmodico di tutte le case farmaceutiche e di tutti quelli che producono integratori. Per cui iniziano circa 20 anni di studi clinici finanziati dalle multinazionali che hanno la finalità di sostituire gli alimenti con le pillole. Perché se io dico e mostro che l'alfa-tocoferolo, la vitamina E, mi protegge le malattie cardiovascolari, io la mattina prendo la pillola, non ho bisogno degli alimenti e campo di più. Allora, io adesso vi faccio vedere un paio di studi su questo aspetto, perché poi, come al solito, gli studi non sempre vengono come uno pensa che possano venire. Per cui, questi antiossidanti in pillole fanno bene o no? Li dobbiamo prendere o no? Cerchiamo di capirlo. Questo grafico che vedete qua, tutte queste frasi qui, sono tutti studi che sono durati dai 3 ai 7 anni, che hanno coinvolto tantissime persone, dove sono stati dati in questo caso vitamina E. E questa è la dose che è stata data, dai 10 unità al giorno fino a 2000. Questa è, questa linea che vedete qua, lo zero, è quella dei gruppi di controllo, cioè delle persone che non si ammalavano. Tutto quello che è sotto protegge, tutto quello che è sopra danneggia. Come vedete, qui a dosi basse c'è un po' di protezione della vitamina E, ma mano a mano che noi ci spostiamo verso le dosi più alte c'è assolutamente un danno. Un danno che vuol dire? Vuol dire che in questi studi si è verificato un aumento della mortalità per tutte le cause, cioè queste persone avevano un rischio maggiore di morire rispetto agli altri. Adesso la concludiamo. Quest'altro grafico, che cos'è? Questo grafico qua si chiama meta-analisi, cioè è il modo migliore per valutare l'evidenza scientifica. Cioè noi prendiamo tutti gli studi su un certo argomento, in questo caso beta-carotene e malattie cardiovascolari e mortalità, li prendiamo tutti quei dati, li mettiamo insieme, otteniamo un numero finale che è questo diamante che ci dice se questo beta-carotene fa bene, fa male o non fa niente, per estremizzare al massimo. Allora, in questo caso, il diamante si trova sulla destra, cioè con un valore che è superiore a 1, che è quello del controllo. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'insieme di tutti questi studi, che hanno coinvolto 138.000 persone, per cui non sono pochi, ci dice che prendere beta-carotene è dannoso, aumenta la mortalità per tutte le cause. E allo stesso modo, anche qui su 131.000 persone, aumenta la mortalità cardiovascolare. Che vuol dire? Questa è la prima volta che escono dati del genere. A suo tempo, cioè le persone, in questo caso non parliamo neanche di rischio, cioè questi due studi cerchiati sopra, la TBC e il CARET, e il CARET di qua, sono stati bloccati perché le persone morivano, cioè c'era il gruppo di controllo e vivevano di più. Quelli che prendevano il beta-carotene per 4 anni morivano di più, morivano di malattie cardiovascolari e di cancro al polmone, per cui gli studi sono stati fermati, proprio per manifesta pericolosità, ok? E questo è un'indicazione fondamentale, importante. Adesso traiamo le conclusioni e vi faccio vedere un'altra cosa, che è questa. Questa diapositiva è estratta dal report che viene prodotto ogni 4 anni dal World Cancer Research Fund, no? Che è un organo di esperti che ci dà un po' delle indicazioni sui rapporti tra cancro e malattie cardiovascolari. Tra cancro e alimentazione. Loro utilizzano questo sistema dove abbiamo i prodotti che diminuiscono il rischio e quelli che l'aumentano, in maniera convincente, probabile, suggestiva, no? Sempre un'evidenza più o meno forte. Perché ve la faccio vedere? Perché in questo caso, nel cancro del polmone, vedete quali sono i fattori convincenti che aumentano il rischio di cancro? L'arsenico nell'acqua e i supplementi di beta-carotene, ragazzi, l'arsenico e i supplementi di beta-carotene nella stessa colonna. Ma dall'altra parte, guardate quali sono i fattori che diminuiscono il rischio in maniera probabile: frutta e cibi che contengono carotenoidi. Attenzione, beta carotene e carotenoidi, parliamo della stessa cosa. Se noi li prendiamo con la frutta, l'evidenza è convincente che proteggono. Se noi li prendiamo come supplementi, l'evidenza è forte che possono aumentare il rischio. E non solo, loro ci danno anche il suggerimento finale sui supplementi, che ci dicono che noi dobbiamo in qualche modo andare incontro a rispettare le raccomandazioni attraverso la dieta, non attraverso i supplementi. E tra l'altro i supplementi non sono raccomandati per la prevenzione delle neoplasie. Questo che vuol dire? Cioè, qual è il messaggio? Perché ogni contenitore mandiamo un messaggio finale, no? Il discorso qual è? Il discorso è che in questi casi i supplementi sono stati utilizzati veramente come coperta di Linus, anni e anni di supplementazione a dose che erano 100, 200, 50 volte superiori a quelle normali che potete trovare nella frutta e nella verdura. Questo non va bene, e soprattutto un solo supplemento nella maggior parte dei casi. Un po', se ripensate a quei 7 nani, è come se uno dei nani fosse diventato un golem e ha mangiato tutti gli altri. Questo è l'approccio sbagliato. Cioè, il supplemento si può anche prendere se uno ha dei problemi di assorbimento, quello che sia, però in condizioni di fisiologiche sane il supplemento serve poco, a meno che in certe modalità, quando sei sotto stress, ma per un periodo breve, perché gli effetti negativi a lungo termine si possono vedere. Quindi è sempre meglio ottenere quelle sostanze bioattive dall'alimentazione, perché l'alimentazione non contiene voi comprate un supplemento di vitamina A, uno di B, uno di C, uno di D, oppure l'integratore che contiene tutto, l'integratore del cacao, della papaya, quello che sia, ma negli alimenti trovate tutte queste cose. Per cui se uno riesce ad accedere, ad andare a un mercato e prendere frutta e verdura, è sempre l'approccio migliore. La supplementazione ci può essere, ma per brevi periodi, perché altrimenti, vedete, questo è quello che succede. Questi sono dati veri, non sono inventati. Prima pillola. E adesso entriamo col superfood. Il superfood è fortemente legato agli antiossidanti. Perché? Perché il concetto di antiossidanti è un concetto semplice, lo capiscono tutti. E il superfood è quello che ci donerà la longevità. E qui dalle vignette lo vedete, no? Ogni volta ce n'è uno, c'è il mirtillo, la fragola, la papaya, le bacche del Golgi, il cioccolato. Poi per alcuni di loro è vero, ma non è vero per tutti. E soprattutto, molto spesso è sbagliata la comunicazione relativamente a questo messaggio del superfood. Facciamo qualche esempio. Queste sono le bacche del Golgi. Bacche del Golgi rosse, fantastiche, vengono dal Giappone. Quindi il Giappone lo sappiamo tutti che è un paese ad alta longevità, dove si mangia bene, dove c'è una vita media molto alta. Per cui il messaggio è forte, è chiaro. Se voi vedete questo manifestino, queste bacche del Golgi servono a tutto, aumentano la funzione sessuale, la fertilità, la salute cardiovascolare e digestiva, ci danno una pelle giovane, chiaramente stimolano il sistema immunitario, riducono l'infiammazione, fanno tutto. Se voi fate una ricerca sugli studi pubblicati sulle bacche del Golgi, ne trovate pochissimi, e ne trovate pochi nell'uomo, per cui tutte queste cose non hanno un riscontro scientifico. Però andiamo alla parte antiossidante. Il grafico che vedete qua ci fa vedere, è sparito? No. Il grafico che vedete qui ci fa vedere uno dei messaggi che viene usato dall'industria alimentare dei supplementi per spingerci a comprare i prodotti, cioè la quantità di antiossidante dell'alimento, no? Questa capacità antiossidante. Allora, vuol dire proprio quanti antiossidanti ci sono all'interno dell'alimento, così, proprio nella matrice. Allora, vedete come le bacche del Golgi ne hanno circa 25.000 unità per 100 grammi. Poi abbiamo tutte le berries, no? I mirtilli, i lamponi, le fragole, che ne hanno molti di meno, fino ad arrivare alla carota, che ha quasi niente. Per cui tu vedi questa cosa e ti vai subito a comprare le bacche del Golgi. Dici, io le voglio morire d'antiossidanti, guardate quanti ce n'ho, li fai vedere agli amici, vedete quanto sono belle, sono rosse, sono giapponesi, c'hanno un sacco di antiossidanti. Ok, vediamo adesso se è vero. Con una premessa. Allora, ogni alimento contiene degli antiossidanti. Questo è uno studio nostro, l'abbiamo misurato di circa 300. Quindi questo valore della capacità antiossidante è diverso a seconda degli antiossidanti. Il cacao è quello che ne contiene di più, però li abbiamo un po' dappertutto. Questo valore lo possiamo considerare come una sorta di potenziale dell'alimento, ma il vero valore è quando noi lo mangiamo. Quando mangiamo un alimento capiamo se funziona o no. Allora vi faccio vedere questi dati. Allora facciamo un esperimento, prendiamo quattro alimenti che sono il cioccolato, il mirtillo, il miele e la lattuga. Misuriamo questi antiossidanti e vediamo che il cioccolato spacca, è il primo, seguito dal mirtillo, poi abbiamo il miele e poi la lattuga, che è l'ultima. Poi prendiamo questi alimenti e li diamo alle stesse persone, la mattina a digiuno, un modello in un giorno, cioè prendiamo il sangue, gli diamo questi alimenti e poi rimisuriamo il sangue e andiamo a misurare l'aumento degli stessi antiossidanti nel sangue per vedere quello che è successo. E scopriamo che il cioccolato improvvisamente è secondo e guardate chi è primo, che aumenta del 50% la capacità antiossidante. La lattuga, che era la più sfigata, l'ultima su quella base della classifica. Poi abbiamo il mirtillo e per ultimo il miele. Allora, vedete come c'è una discrepanza clamorosa tra la classifica in vitro e quella nell'uomo? Perché? Questo dipende da una serie di fattori. Il primo, il fatto che il corpo decide quello che deve prendere e, come vedremo, lo decide sulla base delle sue necessità. Il secondo è che noi abbiamo tanti composti che non sono biodisponibili, cioè hanno una bassa biodisponibilità, nel senso che la biodisponibilità è la quantità che noi assorbiamo ed entra in circolo. Per cui non necessariamente dei composti che troviamo nell'alimento poi li assorbiamo. E non parlo delle vitamine, parlo proprio degli antiossidanti. Terza cosa, il nostro corpo metabolizza le sostanze, per cui se noi abbiamo un composto A che è antiossidante nella lattuga, poi magari quando noi mangiamo la lattuga, questo composto A si trasforma in 20-30 metaboliti, composti diversi, che possono essere più o meno funzionali dell'altro. Questo non si può prevedere, per cui un messaggio commerciale basato sul contenuto ha poco senso. È una proiezione, è una speranza, ma non è una certezza. La certezza ci viene solo dallo studio nell'uomo. Per quello poi queste informazioni devono essere in qualche modo vagliate sulla base dell'evidenza che c'è. Secondo messaggio. Terzo messaggio, il più pratico, lo stress postprandiale. Ogni volta che noi mangiamo è normale, è fisiologico, il nostro corpo, il nostro sistema immunitario reagisce. Reagisce producendo proprio questa infiammazione per un periodo breve, senza nessun problema. Il problema quando è? Quando nasce? Nasce quando noi oggettivamente ogni giorno ci facciamo del male. Cioè mangiamo tanti grassi, tanti zuccheri, cioè esageriamo in maniera continua, per cui questo stress comincia a diventare continuo e quello ci porta all'aumento di tutti i fattori di rischio metabolici, immunitari, cardiovascolari e è la porta dell'aumento dei fattori di rischio che ci portano poi alle patologie. Questo è chiaro, no? Questo lo sapete. Allora, cerchiamo di capire come possiamo difenderci da questo stress, sempre un discorso antiossidanti. Allora, questo è uno studio che abbiamo fatto un po' di anni fa, abbiamo preso X persone, mi pare 20-30 persone, sovrappeso. Sovrappeso, la mattina gli abbiamo sparato questo pasto stressogeno, cioè gli abbiamo dato circa 1350 calorie, 55% di grasso, 30 proteine, 15% carboidrati, fondamentalmente gli abbiamo dato del formaggio, delle patate fritte in olio di girasole, due uova fritte in olio di girasole sempre, e gli abbiamo preso il sangue prima e dopo. Poi nello stesso studio siamo andati a vedere quello che succedeva quando a queste persone gli davamo un succo di frutta con vari antiossidanti naturale. Vi faccio vedere solo quello che è il risultato forse più importante legato a quel discorso dell'infiammazione. Allora, dunque, cerchiamo di capire che succede. Questi due marcatori sono, TNF-alfa e L17, sono due molecole infiammatorie, ok? Che il corpo produce per difenderci, per cui sono infiammatorie. E noi dovremmo abbassarle a un certo punto, però. Quindi che succede? In rosso vedete quello che succede quando queste persone mangiano il pasto stressogeno. Cioè vedete che subito c'è l'aumento dell'infiammazione che sale fino a 8 ore, vedete? E che è il massimo che è stato misurato. E quindi primo messaggio è che quando noi mangiamo una cosa del genere per 8 ore siamo infiammati. Allora capite adesso capite perché quando voi andate, che ne so, a mangiare tipo alle 10 di notte, vi mangiate queste cose, la notte vi sognate i draghi. I draghi sono queste citochine che producono, vengono prodotte nel vostro corpo per 8 ore, ok? La parte nera invece è quello che succede quando noi diamo quel succo di frutta con gli antiossidanti. Ne abbiamo provati 3, tutti diversi, hanno funzionato tutti e 3. Vedete come non c'è più la produzione, è molto bassa, enormemente più bassa, si vede, non c'è bisogno di statistica, sia qui che lì. Per cui il terzo messaggio è: ogni volta che mangiamo, per poter ridurre questo stress postprandiale, noi dobbiamo sempre associare qualcosa di vegetale, che sia frutta, che sia verdura, anche il bicchiere di vino, perché queste sostanze riescono a ridurre questo stress in maniera chiara, significativa, per evitare poi questo discorso qua. Cioè, allora, che cosa vuol dire questa cosa? Allora, se noi pensiamo, no? Se noi siamo una persona normopeso e mangiamo X pasti, quello che sia, questo stress postprandiale che fa? Va su, scende giù, ma rimane sempre in una linea fisiologica. Se noi siamo obesi, questo stress la prima volta rimane qua, la seconda volta sale un po' e sale sempre di più e ci porta al problema cardiovascolare. Cioè questa è una reazione a catena. Più siamo infiammati e più ogni volta che mangiamo quello stress sarà più alto. Capite? Perché poi a un certo punto bisogna bloccarla questa reazione, bisogna tornare giù, perché altrimenti è un problema grosso. Arriviamo nell'ultima parte, che riguarda l'importanza dello stress, cioè questi antiossidanti poi funzionano in un discorso postprandiale, ok, però poi funzionano sempre o no? Noi abbiamo scoperto questa cosa, vi faccio vedere due esempi, che funzionano molto di più quando noi ne abbiamo bisogno, strano, una cosa proprio non naturale, è proprio così. Allora, questo è uno studio del 2002, dove ci hanno dedicato anche la copertina, questa è una rivista abbastanza importante, Gastroenterology, dove su un numero molto grande di persone siamo andati a mettere in correlazione la quantità di antiossidanti che mangiavano queste persone con il rischio di cancro allo stomaco. Quindi più mangiavano antiossidanti e minore era il rischio. Questa è stata la scoperta. Poi però in quest'ambito abbiamo visto un'altra cosa. Quando noi abbiamo diviso la popolazione tra fumatori e non fumatori, quindi fumatori, persone con un maggior carico di radicali liberi, più infiammati, più ossidati, eccetera, eccetera, questo rischio cambiava in questo modo. Guardate, questo è il rischio dei fumatori che non prendono antiossidanti, è il rischio massimo. Mano a mano che i fumatori prendevano antiossidanti, questo rischio diminuiva in maniera lineare. Nei non fumatori il rischio era più basso, e questo rischio poi, all'aumentare degli antiossidanti, non cambiava più, rimaneva lo stesso, perché non c'era più niente da ridurre. Questo è il concetto della necessità di antiossidanti sotto stress. Cioè, se io sono un fumatore, faccio una vita abbastanza stressogena, lì ho più bisogno di antiossidanti di uno che non fuma e che non ha questa vita stressogena. Poi servono sempre, ma comunque l'effetto è maggiore. Vi faccio un altro esempio, l'ultimo, e poi vado a chiudere. Allora, prima di vedere questa è una meta-analisi, cioè una raccolta di studi fatta da noi, dove abbiamo raccolto tutti gli studi esistenti al mondo, dove sono stati dati antiossidanti, alimenti contenenti antiossidanti a persone, quindi studi in vivo. E abbiamo diviso questi studi sulla base della tipologia delle persone, cioè persone sane, senza nessun fattore di rischio, e persone con fattori di rischio. E siamo andati a vedere se c'era una differenza in termini di effetto di questi antiossidanti. E qui lo vedete. Qui abbiamo circa 1500 persone, questi sono i sani. Il risultato è una freccetta, cioè uno 0,367, che vuol dire la grandezza dell'effetto. Ecco, passatemi questo termine. Quando gli studi vengono condotti su persone che hanno fattori di rischio, chi sono? Obesi, ipertesi, ipertrigliceridemici, sindrome metabolica, eccetera. Guardate come le freccette sono 3, il numero è 0,9. cioè tre volte tanto, è tre volte più efficace, perché lì ce n'è il bisogno vero di antiossidanti e lì fanno il massimo dell'effetto. Per cui vado a chiudere, quindi che ci dobbiamo fare con questi antiossidanti? Cerchiamo di chiudere il cerchio. Allora, se noi siamo in una condizione di omeostasi, cioè d'equilibrio, no? Non ci abbiamo stress, per cui stiamo bene. Che ci facciamo con questi antiossidanti? Dove li prendiamo? Quando li prendiamo? Noi li utilizziamo durante i pasti. In questo modo abbiamo una riduzione di quello stress postprandiale e manteniamo l'equilibrio. Quindi li usiamo per mantenere l'omeostasi. Fondamentale la riduzione dello stress postprandiale. Se invece noi ci troviamo in un'alterazione dell'omeostasi, quindi abbiamo molto molto più stress ossidativo e infiammatorio, lì dobbiamo continuare a utilizzarli durante i pasti, ma dobbiamo aumentare l'apporto, perché è lì che fa la differenza, perché dobbiamo tornare verdi in qualche modo e siamo rossi. È lì che dobbiamo mangiarne di più, prenderne di più. E poi abbiamo due strade: o non funzionano e siamo in grossi problemi, oppure fondamentalmente possiamo ridurre lo stress e restaurare questa omeostasi. Questo è, secondo la mia opinione, l'utilizzo che deve essere fatto di questi antiossidanti. Utilizzarli sempre durante i pasti, meglio durante i pasti che fuori dai pasti, quello sicuramente secondo me, perché molto spesso molti di loro non li assorbiamo, quindi durante i pasti invece fanno il loro dovere. Per quanto riguarda poi chiaramente la vitamina C eccetera, quelli li possiamo prendere sempre, perché quelli il corpo li assorbe sempre e comunque, ma è un altro discorso. Quindi fondamentalmente, per chiuderla, ricordatevi sempre una cosa: come dice Mordillo, qui noi siamo in un equilibrio molto precario, fondamentalmente, e in mezzo a questo equilibrio tra benessere e patologie c'è un mondo. Ognuno di noi sa più o meno quello che dovrebbe fare, però in un'ottica d'alimentazione quello che è fondamentale è sempre cercare di mangiare quello che ci dicono sempre, no? Mangiare variegato, un'alimentazione base vegetale è sicuro, ma dall'altra parte dovete capire anche che si può sgarrare senza nessun problema. L'importante è che poi siamo attenti in quello che facciamo nei giorni successivi e durante la maggior parte dei giorni. È chiaro che se noi vogliamo seguire un po' un'alimentazione all'Omar Simpson non usciamo vivi, però sicuramente si può eccedere fino a un certo punto col cibo, godere del cibo senza nessun problema, se in qualche modo permettiamo al nostro metabolismo, al nostro sistema immunitario di recuperare attraverso, come vi ho detto oggi, ma ne parleremo successivamente, anche di altre strategie, se utilizziamo un po' di accortezza, prima fra tutti quella di mangiare ogni volta alimenti d'origine vegetale durante un pasto, sempre e comunque, perché ci riducono quello stress. Sono pronto per qualsiasi domanda.